La questione è che eravamo al bar stamattina, stavamo facendo colazione, la seconda colazione, forse anche la terza, perché dipende a seconda di... Tu la terza. La terza colazione. E eravamo seduti in quattro su un tavolino ed era come se avessimo i microfoni davanti, dicevamo cazzate, e a quel punto, ma perché stiamo sprecando queste preziose risorse, ossia le cazzate? Facciamola una puntata. Mi sembra giustissimo. La realtà è che sono, è un po' di giorni che vorrei... stavo pensando a come si potrebbe realizzare una puntata di Tecnopilz sulle scie chimiche, affrontando il discorso in maniera un pochettino più direi diversa. Perché pensavo, ipotizziamo che questa minchiata delle scie chimiche sia vera. Probabilmente, seriamente, mi sono detto, ci sono le scie chimiche. E affrontiamo il discorso in maniera un po' tecnica, nel senso, come si potrebbe realizzare, ma soprattutto, perché? Che è la cosa più importante, poi, fondamentalmente. Ciao, ciao, io una risposta ce l'avrei, forse è per schimicare. Per desciare anche un po'. Ci sono rimasto malissimo. E questo tra l'altro è anche il mio esordio e morti di bestemmie. È vero. Mi hai intristito prima di introdurmi. Però perché tu non sai quante volte sei morto di bestemmia. A voglia, tantissime. Già, su quella storia dell'hashtag un po' di morti dell'hashtag e un po' di morti di bestemmia. Quella è una puntata a parte, eh. L'asta del microfono. Sei l'asta delle bestemmie, esatto. L'hashtag. Bene, e questa è un'introduzione un po' anomala, un po' strana di un programma che, del quale eravamo orgogliosi, perché secondo me è stato alla punta, cioè la pietra miliare, forse il momento più alto della nostra, del nostro fare radio. Infatti sì, perché questa cosa che era nata come uno spin-off di uno spin-off alla fine è assurda ad essere una trasmissione vera e propria, perché non era soltanto un posto in cui venivamo a sfogare le nostre frustrazioni di comunicazione in un mondo che non ha voglia di comunicare o ha voglia di comunicare in modo totalmente bimbo minchioso. Questa veramente era un'analisi sociologica del fatto del perché le cose non funzionano, del perché le cose continueranno a funzionare sempre peggio. Le cose funzioneranno sempre peggio, sempre, sempre. L'uomo è destinato a scomparire. È il fallimento di se stesso. È la causa della propria estinzione. Che questa cosa mi ricorda che il ponte di Ariccia è la metafora di se stesso. Porco due, sì. È una vecchia storia. Devo dire che io qualcuno da incolpare ce l'ho. Secondo me i social network hanno fatto la loro parte. Sono come il baretto all'angolo in cui si riuniscono le persone più becere per esprimere le loro minchiate. Esatto. Secondo me è troppo facile dire questa cosa qua. Chi crea un social network, lo zacco della situazione, dice: diamo a loro la merda che vogliono mangiare. E il problema siamo noi, barra loro, che mangiamo la merda. Cioè, alla fin fine, io per venire qui, io avevo disinstallato sia Instagram che Facebook. Questi tre giorni che sono sceso qua, li ho reinstallati per vedere, visto che facevo molta comunicazione, tra virgolette, con l'hashtag mezzo milione. Mezzo milione, inevitabile. ed effettivamente, questa roba qua, il fatto, finché ci sarò io che installo Facebook. Hanno vinto loro, hanno vinto i rettiliani. Ma c'era anche un periodo in cui i rettiliani ti costringevano a disiscriverti, da sparire da Facebook proprio. Ah sì? Cioè io mi ricordo che c'era un periodo in cui tu sparivi da Facebook. Ah io sì sicuramente. Io. Ma no, adesso parliamo di cose serie. Le scie chimiche, mi sono detto. Ok, iniziamo con l'argomento vero. Noi ad anni di distanza, in maniera improvvisata, per mezzo milione abbiamo deciso: facciamo questa puntata, morti di bestemmie. Ci spiace, non c'è Gualdi, ma è degnamente sostituito da Cesare Giraldi. Ciao, ciao. Eccomi, ciao. Eccomi, ciao a tutti. Simone Cusella, ciao. Alex Raccuglia, ciao. Insomma, è la prosecuzione di quello che è successo ieri. Simone Pizzi, ciao. Però noi stavolta la vogliamo affrontare quasi seriamente. Vai, Alex. Allora, fai una cosa, togli la musica di sottofondo che mi dà fastidio. Perché poi addirittura mi sento obbligato a parlare, se no entra la. Esatto. Vabbè, ma serve per dar ritmo. Sì, no, ma fammi pensare a quello che dico. Sono due giorni che non dormo. Vai. Allora, volano cose. Mi sono detto: le scie chimiche è una stronzata. Però perché come fai a fare una sorta di complotto in cui metti insieme tutti questi agenti, eccetera, eccetera, e le compagnie, agenti eccetera, atmosferici. Eccetera. Poi mi sono detto, ma magari invece no, magari basta soltanto che, siccome a produrre il petrolio non è che sono tante compagnie nel mondo, chi produce il cherosene per gli aerei non sono ancora meno, secondo me. Mi sento, stai a vedere che questi qui producono il cherosene e ci aggiungono dentro delle cose, potrebbero anche farlo. Anche se a lavorare nelle compagnie petrolifere non è, sono quattro stronzi, sono un sacco di persone, ma ci possono stare. Allora mi sono detto, cosa ci mettono a livello di combustibile? Qualcosa che non viene bruciato nell'esplosione, perché i motori e reazioni sono così, c'è un'esplosione che fa andare, la reazione di questa esplosione fa andare in avanti l'aereo, l'aereo sta a galla perché c'è l'aria che va più veloce sopra, ma lo sapete. Cesare, sei d'accordo? Sono d'accordo, sì, in pratica è così. Allora, mettiamo che ci riescono a trovare un composto di qualche tipo che resista a questa esplosione, perfetto, e che poi viene rilasciato nell'aria. Ma che cazzo di composto è? Questo voglio sapere. No, però tu parti da un presupposto sbagliato, perché parti dal presupposto che quello che loro mandano in giro lo mandano tramite la propulsione. Cioè, quindi invece è come le frecce tricolore, no? Che c'hanno il serbatoio a parte, solo serbatoio a parte, solo per il disserbante. Bisogna essere complottisti fino in fondo. No, è così, è perché gli aerei che spargono le ricordiamo, questa è una cosa importante, gli aerei che spargono le cazzille chimiche sono aerei senza marchio, senza identificativi, senza transponder, senza ali, no, perché sennò li vedi con le ali. Dai, cioè, come la strozzata? Ma vabbè, ma cioè, non penso che sia impossibile, perché sennò si schianterebbero male contro gli aerei commerciali, quelli militari. Mancano i presupposti, ragazzi. No, no, io voglio affrontarla seriamente. Le supposte, mancano le presupposte. Ma no, ma. E allora, cosa contengono ste cazzo di scie chimiche? Spiegami. Il cadmio. Va bene, il bario. Oh, io dico quello che mi dicono a me, che ne so io che contengono. Ma tu che cazzo ne sai di cosa? Vabbè. Facciamo finta. Io non so cazzo di niente, esatto. Questo serio. No, ma cazzo serve il cadmio? Silenzio. Non ho idea in realtà cosa serve il cadmio. Il sangue per me è solo il simbolo sulla tavola periodica e basta. Però non ho idea in realtà. Secondo me bisogna affrontare la questione al contrario, più che chiedersi che cosa mettono, a quale scopo lo fanno. Esatto, perché così si risale e magari si può dire, ok, per quello scopo potrebbe essere usata quella sostanza. Perfetto, allora, tu hai detto che era il controllo mentale, no, ambientale. Cos'è? No, si parte originariamente, doveva essere per il controllo climatico. Originariamente, cioè, guarda, condizionano il tempo. Con il condizionamento del tempo condizionano l'umore. Ma c'è un significato in tutto questo. Cioè, il complottista non parte mai dalla cosa a cazzo de cane completa. Cioè, comunque c'ha un senso, tutto sommato. Il punto è, la mia vita fa schifo. Perché dire che io non sono capace, quando in realtà posso dire con le scie chimiche mi stanno controllando in modo da fare schifo? Sono molto d'accordo su questo. Cioè, non è colpa tua. Ma no. Fondamentalmente, tutta questa cosa qua del gombloddo è essenzialmente una psicanalisi gratuita. Nel senso, alla fin fine, quando vai in analisi, la cosa fondamentale è che alla fine non è tutta colpa tua. Che è quella che è la cosa che ti dibla, ti sblocca essenzialmente. Cioè, questa roba qua è colpa di qualcun altro. Certo, dei negri, dei proci, certo, della ovvio. Famiglia non tradizionale, una roba lì probabilmente. Dei gay che abbassano il PIL. Quello è un capolavoro. Bellissimo. Voi non capite l'arte. No, effettivamente sì, cioè, bellissimo. Il mondo riesce a stupirmi ogni volta ed è bellissimo tutto questo. No, in realtà, allora, quando queste storie sono uscite fuori, che poi in realtà erano cose che esistevano da ben prima dei social network, anche da prima di X-Files, perché comunque X-Files su che cosa si basava la serie televisiva, che molti di voi ricorderanno? Si basava su, come posso dire, leggende metropolitane inserite all'interno di un contesto di sceneggiatura, no? Quindi alla fine funzionava perché io l'avevo detto che era perché già la gente ci credeva, e secondo me forse X-Files ha dato poi il via alla massificazione di questi concetti, no? Quindi poi alla fine questi concetti già esistevano, solo che inizialmente c'era un presupposto realistico, ok, a tutto questo, solo che i social media poi nella frenetica e schizofrenica accelerazione di queste informazioni siamo passati dal ok potrebbe anche essere alla follia più totale. Questa è un po' la cosa. Quindi Alex, tu quale punto vuoi affrontare di questa parabola evolutiva? Ne vorrei affrontare tanti, cioè come per esempio il trollismo, nel senso, cioè mettiamo caso che c'è qualcuno che crede alle varie terre piatte, o ai rettiliani, a queste cose qui. C'è qualcuno che deve fomentare sta roba qui. Cioè, che secondo me ci guadagna anche. Sì, esatto, ripeto, la domanda è: cosa ci guadagni? Chi ti paga? Ah, perché poi il troll è quello che non ha neanche un guadagno nel distruggere, distrugge e basta. No, allora, quello che gode nel vedere gli altri fare a pugni. Ok, ci può stare, ma secondo me il presupposto è che chi crea il movimento, e quindi comunque ci guadagna. Cioè, nel senso, non è che lui dice una cazzata e guarda gli altri che ne parlano. Cioè, secondo me lui innesca un meccanismo dal quale sicuramente ne trae profitto, perché io non posso pensare che uno che ha costruito un movimento che oggi contempla di centinaia di migliaia di persone in tutto il mondo, che è quello dei terapeutisti, sia un cretino. Non lo posso pensare. Cioè, secondo me questo è più una mente cattiva, cioè, capito, un marubaggio che uno che è cretino, perché questo è uno che, come tutte le sub-religioni, no, ha creato un contesto nel quale lui comunque qualche cosa ci guadagna a livello di marketing, merchandising, pubblicità, YouTube, quello che cazzo mi pare. Ma cioè, questo comunque qualcuno ce ne guadagna questa cosa. Ma questo sì, assolutamente. Tutti guardano me, mi piace da morire. Cesare, vai che stai dicendo. Sono d'accordo anch'io, per forza hanno un guadagno. Secondo me la cosa importante è vero quello che ha detto prima Alex, cioè che anche prima queste cose esistevano e il problema fondamentalmente siamo noi, che siamo noi inteso come umanità, che siamo il target. Però i social network hanno dato lo strumento per amplificare la cosa all'infinito e anche portarla ad estremi evidenti. In un certo senso il complottismo non è altro che la faccia un po' stupida, se vuoi, di cose ben più serie, tipo l'influenza sulle elezioni americane o sulla Brexit da parte dei russi. Il principio è lo stesso. Esatto. Quello secondo me è solo la derivazione. Cioè, nel senso che, cazzo, abbiamo visto che sta roba funziona, applichiamola a contesti più importanti. Perché, cioè, se tu tramite i social network sei riuscito veramente a fare in modo che la gente si bucasse la mano e mettesse la macchia di sangue su un foglio di carta e firmasse l'accordo di intenti, no? Quella cosa di Blood Over Intent, non so se la conoscete. Sì, sì. Io non la conosco. Ci sono migliaia di video su sta cosa su YouTube. Allora, se dici, cazzo, se funziona sta roba, la possiamo trasformare in qualcosa di veramente utile, come manipolare una nazione, perché, cioè, a quel punto, vuoi dire, no? Tu la conosci la cosa del Blood Over Intent? No, però da quello che mi hai raccontato credo di aver capito e non so neanche se voglio approfondire. Veramente, cioè, ho un attimo di voglia di scappare da questo, da questo becerume, mettiamolo così. Io non lo so se il terrapiattista, lo scichimichista, sì, lo so. Lauretta pure questa cosa che scrive Davide in chat, che salutiamo naturalmente. Ciao Davide. Ciao. Secondo me lì il guadagno è minimale, cioè, nel senso, è qualcuno che magari, oh cacchio, ho tirato su 10 euro in un anno, sono figo, cioè non so quanto riesci a tirare su di soldi, di guadagni direttamente andando a diffondere questa cosa qua. Secondo me è proprio il principio del troll, cioè ho fatto casino. No, su questa cosa non sono d'accordo, perché se io vado a vedere il terrapiattista più famoso che pubblica video quotidianamente su YouTube e ha 500.000 visualizzazioni ogni video, quelli sono sordi, Alex. Io volevo fare un piccolo esperimento. Io c'ho questo piccolo esperimento. Come si chiama uno dei più grandi terrapiattisti italiani attivi su YouTube? Toninelli. Un altro lo conosci? No, non ho idea. Vabbè, almeno un nome ce l'abbiamo. Come si chiama la tizia che ha programmato tutto il sistema per fare la foto del buco nero? Si chiama buco nero, c'è il buco grosso. Kate qualcosa, se non sbaglio, non me lo ricordo. È importante, vedi quanto è intelligente sto ragazzo. C'ha l'intelligenza intrinseca. Ce l'ho in testa, ce l'ho qui impressa. Ce l'hai dentro, Vabbè, ma è perché le minchiate da sempre fanno più notizia delle cose serie. Alla fine, quando vai a lezione, se ci fai caso a distanza di tempo, ti ricordi magari la battuta idiota piuttosto che le cose intelligenti. Tipo educazione sessuale. Ah, quello è il cazzo. Questo sì, però comunque noi che siamo persone, diciamo, serie, cioè non è che... Adesso non è stato cerchiamo di essere persone serie. Allargata, dai, su. Ci ricordiamo Tinelli lì, Toninelli. Tinelli è top. Ma che tanto secondo me siamo là. E non ci ricordiamo alla fine le cose serie, le cose veramente importanti. Cioè io, questi nomi qua di quelli che hanno lavorato alla foto del buco nero... alla scoperta delle onde gravitazionali, io non li conosco. pur essendo comunque interessato all'argomento, però magari mi ricordo dei tizi che fanno le conferenze terrapiattiste perché sono talmente delle cose idiote che ti rimangono in testa, quindi questi alla fine sì che hanno una loro notorietà, un loro guadagno. Sì, ma un guadagno di notorietà eventualmente, ma non di soldi. No, beh, di soldi beh, no. Notorietà e soldi no, dai, oggi sono collegati. C'è un giro dietro tutti sti conferenze, c'è le cose. Ce ne sono i soldi dietro, ragazzi, non è inutile stare. Ma no, ma l'hai visto anche oggi, cioè quanti soldi c'erano ieri in ballo? Ma che c'entra ieri? No, ieri abbiamo visto una serie di conferenze ieri, no? Ma c'è, quello è un altro contesto. Cioè, allora, quella è una cosa molto specifica, interessata a determinate persone che hanno già un presupposto culturale, un'attenzione verso quella cosa. Qui stiamo a parlare delle persone che vanno a fare la conferenza e ti parlano del fatto che Hitler è vivo perché la terra è piatta. Capisci? Questa è gente che acchiappa sulla massa perché spara cazzate, sapendo di sparare cazzate. È come quelli che iniziano facendo su YouTube gli EVP che parlano con i morti e poi finisce che fanno il giro d'Italia perché così mi fai parlare con mamma. Cioè, ci stanno queste cose, creano movimento. Non guadagni milioni, guadagni qualche decina di migliaia d'euro, è uguale, sono sempre soldi che... C'è cioè anche 1.000 euro al mese, guarda che sono fin troppi. Capito, cioè, poco, sono comunque soldi che stai arrubando alla coscienza del mondo. Ok, sì, che secondo me non è tanto differente del 100.000 di Vanna Marchi che del Mago Don Iacimiento. Il meccanismo per me è il medesimo. Ok. E la cosa inquietante è il fatto che appunto, cioè nel senso, questi prima affrontavano la cosa in maniera parascientifica, cioè nel senso comunque si davano un tono, no? Oggi veramente se tu vai a vedere i temi delle conferenze è un cazzabuglio di superstizione, non è manco più, capito, leggende metropolitane. E l'ignorante, quello che non esce di casa perché non sa parlare italiano con quello vicino, però poi alla fine il modo per sostenere sta roba la trova, perché vedete come ti dicevo io, capito? Così, questo secondo me è un po' l'idea. Poi giustamente Alex stamattina a colazione, è ritornando un po', si è posto la questione, sì, ma tu conosci veramente un terapeutista? È una bella domanda. Io no, per sua fortuna. Vabbè, perché veniamo, magari lo conosci e non lo sai. Il terapeutista gli esatto, perché secondo me il terapeutista con un minimo, quindi non stiamo a parlare di quelli veramente ignoranti che appunto scrivono con le K, però io secondo me le persone che secondo me credono che la terra è piatta ne conosco, ma non te lo diranno perché hanno ancora quel minimo di capire che forse dicendo sta cosa esagerano. Sono nel limbo tra verità e la verità. Secondo me c'è anche un altro discorso da fare. Il progresso scientifico negli ultimi anni comunque ha raggiunto una velocità esponenzialmente più veloce di quella di quello che era precedentemente, quindi secondo me questo può voler implicare anche il fatto che le persone normali, diciamo, si sentano sempre più lontane da ciò che la scienza dice. Certo, certo. E quella cosa lì non è banale. Mi ricordo che questo discorso l'aveva fatto il buon Piero Angela in una puntata di Super Quark con un forbicione gigante, dove diceva che la distanza tra la conoscenza delle persone, diciamo la cultura, e ciò che la scienza ha spiegato, capito, sta aumentando, proprio perché la scienza va sempre più veloce grazie alla tecnologia dell'informazione, grazie alle collaborazioni internazionali, per mille ragioni. Invece la conoscenza delle persone ha tempi molto più lenti, perché passa per le scuole, passa per altri lidi. Quindi sono tanti fattori, come tutte le cose, sono congiunture e niente, questo. Ma poi c'è, cioè, la scienza adesso va a vedere cose veramente microscopiche, alla fine incomprensibili a tantissime persone. Cioè una volta avevi la mela in mano, dimostri che se la lasci cadere questa cade per terra. Ha detto che era incomprensibile anche all'epoca per la gente la gravità. Vabbè, perché sì, era il fine 600, sì, mi sembra, inizio, sì, non, no, è ma una cosa così secondo banale, me però... il problema sì, è come, cioè, adesso fai vedere che se scontri questo atomo con quell'altro a una certa velocità, okay, si forma a certe cose, non c'è la versione media, anche con un presupposto culturale secondo me non ci arrivano comunque. Non è necessario entrare, voglio dire, per fare questa grossa distinzione. Quello che dico io è che se tu oggi in una società dove anche alcune figure istituzionali o personaggi di spicco del mondo politico ti dicono che serve la laurea, è chiaro che no. Sì, no, sono rimasto un pochettino indietro. Sto morendo di bestemmie. No, in realtà non sto morendo di bestemmie. Sono un po' mi dispiace un po' perché volevamo fare una trasmissione per ridere e finiamo per piangerci addosso. No, tu lavori fa seria la trasmissione. No, era seria, però non volevo neanche parlare di sociologia. Detto questo, sono molto contento che siamo qua a parlarne e sono molto contento che ci sia anche Cesare per la prima volta, perché così. Sì, perché poi è un argomento anche. Grazie, grazie, troppo gentili. Scottante, un argomento scottante. Sì, sì. Però ritorniamo poi a questa cosa, cioè riprendiamo la cosa originale di Alex. Partiamo dal presupposto, per quanto assurdo sia, che è così, che la Terra è piatta. Partiamo da questo presupposto, cioè è così. E noi siamo vittima di un inganno creato dalle lobby LGBT, da qualcuno, chi dice questo? I Rothschild, il gruppo Bilderberg. Bravo, esatto, i fratelli Cohen. C'è questo enorme complotto che ci vuole a tutti i costi dimostrare che la Terra è tonda. Allora, io qui vi faccio una domanda e voglio che tutti e tre mi rispondete seriamente, ma anche a cazzarella, come volete, non è un problema. Perché io penso che per convincermi di un'idea tu mi devi dare un motivo, non mi devi dire l'idea, perché l'idea sono buoni tutti, cioè pure a me piace pensare che ci sono gli alieni sulla Terra, mi piacerebbe che ci fossero gli alieni, che ci fosse un'altra civiltà, che un giorno faremo parte di una comunità galattica, sarebbe figo, no? Però guarda come ti guarda Cesare, io sono convinto che Cesare è alieno di suo. Alieno è un rettiliano, ci sta tenendo sotto. Io sto facendo finta di nulla, infatti. Dopo ci mangia. Mi nascondo tra voi. Esatto. Dopo ci mangia. Però dico, cioè, mi devi dare un motivo per credere a sta cosa. Quindi perché io devo sprecare miliardi di risorse tecnologiche, multimediali, audiovisive, per dimostrarti una cosa che è al contrario di quella che è? Cioè, che cosa ne ho guadagnato, Cesare, secondo te? Che cosa ne hai guadagnato? Sei Bilderberg in questo momento, eh? Cioè, sei la NASA con i Cohen, stanno a giocare a carte, no? E il problema è proprio quello, secondo me, è che tirare in ballo persone a caso, organizzazioni random, non aiuta questo pensiero. Cioè, bisognerebbe dire, ok, qual è il... Secondo me, okay, prima di tutto partire dallo scopo. Allora, aspetta, immaginiamo, senza tutte queste cazzate, immaginiamo che esista veramente un'entità occulta. Okay. Ok, che è sovranazionale, sovra le parti, che poi... Boh, non è che potrebbe pure essere, no? Beh, la P2... No, le logge in generale, la massoneria e tutto quello che ti pare avevano questa funzione, cioè quella di essere fuori, no, dal meccanismo istituzionale e poter così gestire il mondo in una maniera diversa. Che motivo ci può avere fammi vedere la Terra tonda invece che pianta? Secondo me è una domanda da $1,000,000. È complicato rispondere, veramente complicato. Nel senso, metti caso che il perché è il buco di queste teorie, probabilmente, perché tu puoi ancora dire ok, immagino che ci sia l'aereo senza insegne non riconoscibile, bla bla bla, okay, col serbatoio, che già anche lì gli aerei volano più leggeri possibili proprio per portare più carburante, certo. Quindi il serbatoio è peso in più, quindi è inverosimile, ma mettiamo pure del serbatoio, eccetera, spargono una qualche sostanza, mettiamo pure che possano controllare il clima, cosa che non credo sia possibile con dove la scienza è arrivata, ma mettiamo pure che siano in grado, però arrivi al punto in cui dici ok, c'è, cioè, questa entità segreta, fa tutta sta roba, ok, e quindi? Cioè, esatto, perché? Esatto. E penso che ci si blocchi lì. Bisognerebbe chiedere a un complottista. È vero, bisogna inventare... Perché io di sci chimichisti due o tre ne ho conosciuti, fisicamente, cioè che proprio lo dicevano. Una persona la conosco pure io, ma può essere. Sì. Ok, un'altra, no, ma la più convinta era una che lavorava per un tizio veramente strano, di Roma, laziale, ma strano. Qui sei peggio, uno che si vantava nella riunione di lavoro, no, perché io facendo il coaching, quindi, sai quanto scopo? Mi chiamano dopo le conferenze e scopo, bravo, cioè, nel senso, ma in orario di lavoro, ti immagini una roba del genere? E sti cazzi. Oh, scopo, faccio le cose. Che poi sta cosa è diventata brutta, eh? Sì, sì, brutta. Se tu oggi intervisti, le interviste, cioè, la gente c'ha, oh, fottere, cioè, scopare. Mascio Capatonda, presidente della Repubblica. Assolutamente sì. Beh, tipo le interviste imbruttite. Quello stava tutto dicendo. Attorno all'immagine, al successo e a... cioè, ripeto, però, cioè... altri complottisti, tipo rettiliani, cioè, no, non ne ho conosciuti, non credo. E soprattutto mi sembra abbastanza poco verosimile che ci sono dei rettili sviluppati che parlano la nostra lingua. Cioè, ma che... certo, no, non è quello il tema del... Tu devi, come dicevi, parti dal presupposto che sia così. Sì. Ok, quindi noi quelle domande che ci dobbiamo porre sono oltre il fatto che sia fattibile o meno. Dobbiamo capire il perché. Cioè, è tutto là. Ma quello non capisco. Cioè, già l'alieno lo posso capire. Metti l'ipotesi che un alieno si è messo in contatto con gli Stati Uniti d'America. Loro occultano sta cosa per poterne trarre un beneficio politico, militare, tecnologico, quello cazzo, quello lo posso capire. Ma la terra piatta, io non lo capisco, io veramente non lo capisco. E vi giuro che mi ci metto lì e dico: no, devo trovare una motivazione. Cioè, devo trovare un pensatore che sia in grado di farmi capire, oltre quello che loro non possono farmi capire, che senso ci potrebbe avere. Sentiamo Simone che dice questa cosa. Io non ho una risposta, cioè, allora, praticamente, se ce l'avevamo, cioè, se io fossi la NASA, la Terra è piatta, sei la Terra piatta, io sono la Terra, ti ho visto mangiare tanto, ma guarda, non tutto tanto. Sei tranne che piatto, quindi io guadagno perché voi credete che la Terra è piatta perché vi controllo la mente con la Terra piatta. Con la Terra. Però io dico: ma perché non fare la stessa cosa con la Terra tonda? Cioè, non ci guadagni in ugual modo, spendendo anche meno per occultare la verità? Cioè, questo non capisco. No, ma il problema è che se tu dici: oh, ragazzi, sulla Terra c'è un sesto continente che non vi vogliono far vedere, lo posso capire. Cioè, nel senso, ti dico: oh, è anche verosimile, tutto sommato. Cioè, ma tu stai a prendere una pizza con una palla da baseball, cioè, nel senso, due cose contestualmente diverse, con motivazioni diverse e presupposti diversi dal punto di vista fisico, scientifico. Cioè, perché io ti devo dire che la Terra è tonda? Perché? Me lo sto chiedendo. Cioè, Davide dice che possono essere veicoli addizionali per portare persone, tra virgolette, ignoranti verso un movimento politico. D'accordissimo. Questo rimane sempre il fatto che io, Simone Pizzi, ho bisogno di un motivo. Cioè, ce l'ho bisogno anch'io, perché effettivamente, secondo me, la parte che viene portata è quella che non se lo pone. È risibile, esatto, come percentuale. Cioè, se partiamo, ok, magari in certi casi un 1% può cambiare o non cambiare un esito di un'elezione, però secondo me è troppo poco. Però io questo che non capisco, cioè, allora, un partito sostiene che la Terra è tonda, l'altro invece che la Terra è piatta. Ah, guarda, la Terra in realtà è piatta, quel partito lì è brutto e cattivo. E parliamoci chiaro che sta già avvenendo, perché esatto, gli antivaccinisti quello sono, eh? Esatto, sì, stanno esatto, diventando veramente pericolosi. Quindi, anche a livello politico. Gli antivaccinisti ne ho conosciuti migliaia. Cioè, anche... E quello non ha nessun senso di esistere. Però, diciamolo, cioè, chiaro, dico, nessuno. Ma perché è per forza quello, il partito terrapiattista, quello che ha ragione e non l'altro? Cioè, perché deve essere per forza così e non la situazione inversa? Perché uno dei due deve per forza guadagnare su una bugia e l'altro deve sostanzialmente... Allora, in questo caso la bugia è sempre, cioè, non è colpa tua, se non ce l'hai fatta non è colpa tua, è qualcun altro più forte di te che ti ha schiacciato. E siccome... I poteri forti, per cui, cioè, perché fondamentalmente... Questa è Napalm 51, eh? E questa è la questione, è proprio questa, essenzialmente... Non è colpa tua, tu ce l'avresti potuta fare ed è colpa di qualcun altro, e incazzati con questo qualcun altro, qualunque cosa sia. Allora, questo è il meccanismo in generale delle sette, che allora non che spesso e volentieri non hanno neanche un presupposto ideologico. Ti dicono: noi siamo quelli che ti vogliamo bene e quello che è fuori è il male, la tua famiglia è il male, ti capiamo solo noi, tu che sei, capito, solo, o via dicendo. Allora, a quel punto, cioè, tu comunque accogli, cioè, prendi le persone su una debolezza, su una lacuna psicologica oltre che culturale. Però, dopo, che spesso e volentieri sia, so esattamente che questa bistecca è finta, però voglio crederci lo stesso, datemi la pillola rossa. Bravo. So, io ho un'esperienza diretta con dei miei amici quando avevo 20 anni, sono entrato all'interno di un gruppo di cui non farò il nome, quando sono andato al convegno nazionale e io sentivo dire determinate cose, alzavo la mano e dicevo: ma scusate, ma non è così cos'ha? Il capo faceva una battuta che non aveva nessun senso, nessun presupposto, e tutta la platea rideva cioè istericamente, perché loro il presupposto della contestazione era già oltre la loro capacità, no? Cioè, un cazzo, tu mi stai criticando il mio mondo, cioè la mia vita, perché poi per loro diventava quello, no? Gente che ci posso parlare, sì, si mettevano a piangere, cose voi non potete capire. E fatta questa esperienza io ho capito che c'erano questi meccanismi, ma l'ho visto direttamente, no? Però ribadisco, per le persone medie, perché io posso capire che sta cosa possa spostare, come dice Alex, la risibile percentuale dello 0,5%, no? Ma invece quella grossa massa che invece si muove sul fatto chi ti paga, questo è Alib Abdul che guadagna 5 milioni grazie a Renzi, mentre che il Pacciani, la foto di Pacciani, cioè invece il povero Mario Rossi non ce la fa con 300 euro al mese, cioè non so lo 0,5%. Nel senso, è inquietante il fatto che la società è andata verso la deculturalizzazione in maniera pericolosa almeno da 30 anni a sta parte, cioè abbiamo fatto lo stesso sistema degli americani, cioè tu devi saper fare quel pulsante lì, non ti preoccupare della cultura generale che serve un cazzo, e poi alla fine il risultato è questo, insomma, alla fine. E la politica giustamente ci cavalcano sopra i terrapiattisti, perché a Toninelli della terra piatta non gliene frega un cazzo. Ma è un personaggio che faceva l'attore fallito, faceva il pupazzo di Disneyland, roba del genere, che a un certo punto ha capito che facendo sta roba comunque quel 1500 euro al mese invece di andare a far pagliaccio li alzava. E questo pubblica quotidianamente video che sono rubati dai video che trova a livello mondiale. No, però scusa, questo è Tinelli, non Toninelli. Non creiamo confusione. Io mi ero posto il problema, ma mi ho detto: ma magari sono ignorante io. Sì, scusa, ho sbagliato io. No, perché all'inizio. No, ho sbagliato io, hai ragione. Poteva anche esserci, però no. Ottimo. No, beh, più che altro poi. Scusa, sbaglio perché. Metti che arriva il Toninellista. No, ma cioè, ci sarà un caso di omonimia. No, sono sicuro. No, che Dino Tinelli, hai ragione. Sì, ha ragione lui. Tinelli è. Ho capito. Sì. Tutto quello che rettifico, cioè uno che ha 33.000 iscritti, chiudi cosa qua. Che parlano. Che però c'ha. No, si sì, ho levato. Che c'ha centinaia di video, perché questo li carica tutti i giorni. Video con una media di 2000. Ma adesso. Lui li ha ricaricati questi video a molti, però in realtà c'aveva veramente 10.000, 5.000, 50.000, a volte 100.000 visualizzazioni a seconda dei titoli che diceva, e che ne so. Poi scusa, su Tinelli c'è comunque una cosa interessante da analizzare. Io ho visto qualche suo video e in un video dice che Google oscura i risultati relativi alla terra piatta. E allora si sono inventati questo sinonimo terra piana, che ovviamente Google non ha nel suo algoritmo, certo. E quindi non esclude. Però c'è, guarda questa cosa dal loro punto di vista. Questa cosa, diciamo, non proprio così, ma gli dà ragione. Cioè, comunque è un sistema più grande di loro, più grande di tutti noi, Google, Microsoft, tutte queste grandi aziende che, diciamocelo, controllano il mondo, che oscurano cose che, vere o non vere, comunque sono scomode per loro, quindi ha una base verosimile, come le leggende, che c'è sta, è esatto. Quello il genio di fondo, cioè il presupposto è sensato, non è una cazzata. Io oggi credo che Google comunque mandi avanti le cose che fanno comodo e faccia restare indietro le cose che non gli fanno comodo, ma è ovvio che è così, cioè. Sì, però un conto dici, io ho 10 milioni da spendere su un progetto, questo qua non so cosa farmene, li spendo su quest'altro. Un conto è dire, io così, completamente di mia spontanea volontà, escludo i risultati di queste ricerche, che possono anche avere comunque un'importanza scientifica, perché comunque, no, tutta sta roba della terra piatta ha innescato una serie di articoli, di video, che dimostrano la... che sono tutte cazzate sostanzialmente. Quindi li ho visti anch'io. Creano sostanzialmente, sì, anche informazione per chi ha voglia di informarsi. Però se tu completamente così gratuitamente dici no, queste cose non le voglio e le escludo, le oscuro, stai quasi dando ragione a questi qui che dicono, ecco, vedi, io dico cose scomode e questi mi cancellano, mi censurano i miei articoli, mi censurano. Infatti, allora, questo oggi noi ne abbiamo discusso un po' l'altra volta, no? Sul fatto che YouTube ha cominciato ad agire tecnicamente sugli antivaccinisti, considerando praticamente il materiale antivaccinisti come materiale pericoloso, e quindi viene rimosso da YouTube. Però tu così... Allora, come ho sempre detto, visto che non siamo stati in grado di intervenire per tempo contro determinate cose, arriviamo quando oramai la frittata è fatta. E quando la frittata è fatta e tu rimuovi, crei una censura a quel punto. Perché questi possono far leva sul fatto che tu mi stai a censurare, chi ti paga? Mi sto guardando la quantità infinita di video che sono su questo canale, ma no, infinita. Questo, anche se ci avesse 5.000 visualizzazioni ogni video, questo carica 5 video al giorno. Sì, sì. Quando tu c'hai lui, chi lo paga? Non li fai, non li fai, cioè. Copia. Lui prende i video su tutti i canali nel mondo, li prende e li ritraduce in italiano. Ok, quindi già è una cosa che non si potrebbe fare. Infatti gli hanno segato il canale 5-6 volte, poi lui lo riapre e lo ricarica e ricarica tutto, capito? Lui fa sta storia. Perché in realtà poi lui è stato attenzionato da tempo. Poi quando ha caricato un video su Hitler e sulla roba eugenetica, che era una roba un po' strana, ripeto, questo non crede a sta roba, perché mischia la religione, la politica, gli alieni e la terra piatta, tutto insieme, fa tutto un miscuglio. Questo è uno che ha capito che con sta roba, cioè, ci si fa uno stipendio. Quello che te fa, sta a casa, carica 10-5 video al giorno e poi va a scopare. Cioè. Io ho una domanda su questo, ma prima parlavi dell'aspetto storico, del fatto che la società è andata verso una diminuzione, sì, della cultura, diciamo, a livello medio, sì, ma secondo te perché, ad esempio, una volta il maestro magari di scuola era considerato un'autorità insieme o al prete, magari al sindaco, non saprei in realtà, okay, il sindaco. Vabbè, così a caso, sì, no, è vero, quelle è vero. 3-4 persone in paese, e adesso questa cosa non è più vera, cioè cosa ha fatto fare quel salto da il maestro ha sempre ragione qualunque cosa dica al mio figlio ha sempre ragione qualunque cosa dica? Allora, secondo me questa, allora, la nuova, cioè con questa nuova tendenza, diciamo così, dal punto di vista pure della comunicazione, in realtà fa leva su cose che dentro di noi ci sono sempre state, no? Cioè, nel senso, sì, il maestro c'ha sempre ragione, io lo rispetto perché è l'istituzione, però il maestro c'ha con me, no? Mentre l'ipotesi. Oppure, però non è giusto. Perché noi ci avevamo sempre avuto sta cosa, no? Come di fronte a le giudici, preferenze, l'arbitri, i soccornuti e via. Cioè, sono cose che ci sono sempre state. Ok. Oggi, con la degradazione del, come posso dire, del rispetto dell'educazione politica, dell'educazione comportamentale in generale, oggi noi abbiamo dato adito, abbiamo istituzionalizzato, legittimato il fatto che tu dici, ma il maestro non vale il cazzo, le lauree non servono a niente, come io c'ho mio fratello che voleva fare il chirurgo, certo fa il bidello, non è laureato, però lui voleva fare il chirurgo, non gliel'hanno permesso, non è che non ha studiato. Non gli hanno permesso perché lui non è colpa sua, lui è colpa andare dei laboratori, però cazzo no, cioè, e questo è un po' il discorso, non più da Berlusconi in poi, secondo me c'è stato proprio, hanno segato la scuola costantemente, ogni legislatura ha segato la scuola in una maniera incredibile. Ma la sensazione è che non sia solo a livello italiano, cioè, no, guardandosi globale, intorno, è quella la mia cosa, posso ancora capire, vedi, con Blood. Posso ancora capire forse a livello italiano, perché c'è appunto la parte politica che è probabilmente influenzato molto. Alla fine, fin da Renzi, ma anche prima sicuramente, sentiva parlare dei famosi professoroni. Alla fine, che cosa sono i professoroni? Quelli che hanno studiato più di te, semplicemente. Aspetta, anche qui ritorniamo sempre al discorso che si parte sempre da un qualcosa che in effetti, perché quando io ero ragazzino, torno sempre alle mie esperienze perché forse sono l'unica cosa sulla quale e venivo operato dal professorone, dal cattedrato, da gente che non ti inculava, cioè nel senso ti metteva le mani dentro, ti aprivano e ti richiudevano e non ti dicevano neanche buongiorno e buonasera, ok? Cioè, che ci sia stato questo atteggiamento che ha creato ulteriormente, come posso dire, sfiducia, allontanamento, comporta oggi, se tu vai all'ospedale gli atteggiamenti sono diversi, naturalmente, oggi all'ospedale comunque sono più attenti, ti spiegano, te cosano, stai male, ti do la punturina, roba del genere. Una volta queste cose non esistevano, no? Questo in vero, generale, anche all'università era così, cioè tu all'università, al professore, non gli potevi andare troppo a cagar cazzo, no? Perché lui era il professore, cioè non era solo il professore, era il professore, ok? Quindi sta cosa in effetti ha alimentato, cioè tutto quello che nasce, secondo me, non nasce per caso, nasce perché c'è una base sociologica, c'è una base psicologica, c'è una base culturale che purtroppo poi alla fine è diventato terreno fertile per dati, do ai coglioni e te fai coglioni, cioè... Sì, no, in realtà questa cosa qua, cioè, c'hanno messo, i professori ce l'hanno messa del loro, cioè l'elitarietà non ha aiutato questa cosa qui, effettivamente. Io ho studiato, tu sei zappa e non mi rompe i coglioni, questo era il... Sì, è vero, non ha aiutato questa cosa qui. E ecco, effettivamente... Le internet hanno messo in comunicazione tutte queste micro minoranze che poi si sono accorti di essere tanti. Come i nerd, una volta se eri nerd eri sfigato, come ci hanno detto ieri, sti nerd. Cioè, adesso i nerd si sono messi tutti insieme perché si trovano e tra l'altro sono quelli che comunicano meglio. Sono la maggioranza, probabilmente. Allora, infine, cazzo, siamo tanti, io sai che è. Per cui c'è questa cosa qui, ha avuto questo effetto contrario. In questo i social network, cioè la possibilità di fare networking, indipendentemente dal fatto che sia social oppure no. Già con i forum era così. Che palle, uno inizia una trasmissione e si perde fiducia nell'umanità. No, però vai, parliamo invece delle cose serie, parliamo dei rettiliani. Poi tu mi devi spiegare perché rettiliani. No, ma tu me lo spiegare io non lo so. Qualcuno mi spieghi le basi dei rettiliani, cioè io non so proprio nulla. Non lo so neanche io, infatti io li sento parlare, però ho sempre pensato che fosse una goliardata, per dire, anche se oggi usare il termine goliardata è una cosa pericolosa. Allora, anche qui devo dire, anche se Alex inizialmente poteva non essere d'accordo, ma secondo me poi ragionandoci anche qui è una questione dei soldi, no? Perché se io inizio di prendi tutti i cazzabugli, diciamo, delle leggende metropolitane che ci possono avere anche, come posso dire, anche lì una base, no? Perché io te trovo il geroglifico con uno che sembra che c'ha un casco in testa, è Master Chief, è chiaro, no? Cioè, nel senso, alieni. Non ci so cazzi su questo. Quindi noi abbiamo sempre identificato le grandi risorse che hanno impiegato le civiltà antiche a costruire determinate cose, come hanno fatto la precisione del laser o roba del genere, al fatto che queste cose non le abbiamo costruite noi, ma noi siamo una derivazione di una colonizzazione aliena, no? Come quindi... le piramidi che l'hanno costruite civiltà tutte le cose. Allora, già loro ti dicono perché ogni civiltà distaccata tra sé nella storia hanno tutti costruito delle piramidi, perché più o meno in effetti, cioè, le piramidi ce ne so in Sud America, ce ne so in Asia, ce ne so in Africa e non so in Europa, perché forse in Europa no, però insomma in generale sparse per tutti i continenti sono ste cazzo di piramidi. Allora, tutti, perché le piramidi? Perché noi siamo frutto di una civiltà aliena, no? Ok, ammesso e non concesso. Potrebbe però... anche essere. Che poi, cioè, non è impossibile. Cioè, infatti, tipo Odissea nello spazio. Non sei in concettualmente grado. Quello è. Bravo, esatto. Comunque l'universo esiste da miliardi di anni. Non puoi sapere che. Cioè, nel senso, non lo puoi negare e non lo puoi confermare. Esatto. Quindi, se tu vuoi avere un atteggiamento, come posso dire, agnostico, dici, io. O non mi pongo il problema o non posso saperlo, quindi basta. E poi c'è anche queste divinità, queste religioni. Magari questo dio era semplicemente questa... Attenzione a quello che dici quando parli di dio, No, vabbè, cioè... Però sono d'accordo su questo, un'idea che mi affascina, l'idea della divinità come semplicemente un essere superiore, magari effettivamente esistito in un qualche passato remoto, potrebbe anche essere. E non lo possiamo negare. Su questo io continuo a cambiare, sono a corrente alternata, cioè... Passo dall'ateismo all'agnosticismo. No, ma io non. Allora, no, invece io sono più tranquillo su questo. Io le dico, potrebbe essere. Quindi non me ci sto a. Capito? Sì, ma perché ci sono così tante domande. Cioè, questa divinità è veramente un qualcosa di materiale, senza tempo, bla bla, oppure è quello che rimane di questa civiltà aliena più avanzata, che comunque al cospetto del, che poi nel tempo è diventata una divinità senza tempo. Sì, che poi pure qua bisogna mettersi d'accordo, cioè, noi siamo il frutto di una colonia aliena o siamo venuti a colonizzare un pianeta che già era abitato, e magari qui vediamo a Battlestar Galactica, attenzione. Però dal mio punto questa è una spostare il Dio dal luogo divino al luogo materiale. Comunque se Dio è un alieno, allora c'è comunque, dal mio punto di vista, c'è comunque un Dio che è il Dio di tutti quanti, cioè il creatore dell'universo. Questa è una questione mia, mia personale. Sì, ma al di là della religione in sé, no, che ci può avere antropologicamente e teologicamente tante ragioni, io quello che ti dico è che lui dice c'è una mille stronzi che sanno, ah vaffanculo, dateci da magnà, arriva uno, boom, una fulminata dall'alto, cazzo, Dio ci ha punito, cioè sì, ok, come quando cammini per strada e il lampione si spegne, mamma mia, è un segno, io che emano delle onde strane. Tu le onde ne emani, le onde sonore, quelle dentro, però sì, dentro. Le onde, io faccio sonore. Tutto dentro, no, ma è così, cioè tu a cospetto di oggi noi andiamo in una popolazione primitiva, spariamo un ologramma e quello, cioè tu hai evocato un morto, cioè se dai un fantasma, cioè posso dire, no, nel senso, di fronte a chi non ha la capacità di poter interpretare quello che vede, lo interpreta come gli pare a lui. E nella storia dell'umanità la cosa più semplice è stata comunque collegare tutto alla magia, alla superstizione, alla divinità, a tutto quel meccanismo che so cose tutte diverse una tra loro, ma fanno parte più o meno, insomma, sempre della stessa cosa. Però poi gli Elohim, i rettiliani, le mantidi, i grigi, è vero, cazzo, i grigi, poi ci stanno, aspetta, quelli della cosa, vabbè, poi la Federazione Galattica di Luce, cioè, ma non... il Consiglio Galattico dei Rick, esatto. Bellissimo. Ma è che è lì, cioè, nel senso, su quella serie, guarda, grande satira, ma satira secondo me è pure poco, perché ma guarda che se vai a scavare trovi di quei riferimenti, di quelle robe allucinanti. Comunque, una cosa è che tu sei, perché poi ci sono trasmissioni, no, visto quelle là che piamo per culo, sono morti di bestemmia, no, che te parlano di questi alieni, no, tipo com'è? Enigmi alieni. Che c'è sempre lo stesso tizio, che è lo stesso su tutte le trasmissioni, con i capelli, esatto, alieni, quello del meme. Dice, no, ma perché secondo importanti studiosi, e non si sa mai che sono questi importanti studiosi, e mischiano tutto, cioè ti mischiano da pure lì da Hitler alla piramide egizia agli alieni, no, mischiano tutto. Ma poi io voglio capire, siamo una colonia aliena o ci stanno una marea di alieni in giro e siamo gli unici stronzi che non li vedono? Secondo me sono gli unici stronzi. Perché, Alex, tu sei... Però guarda Cesare, lo sguardo di Cesare non mi piace. Vai. Ma vai, io l'ho già detto più di una volta, sono un alieno che ci mangerai a mascherato, tutto. Devo solo scegliere quale alieno sono. Allora no, tu mi... ok, quindi... No, ti stavo a fare una domanda, ma me l'hai già bruciata praticamente, perché volevo sapere se... come ti mettevi in contrapposizione con gli altri, cioè... Ma poi c'è un tipo, che ne so, quelli stanno un po' più a destra, quelli un po' più a sinistra, i democristiani alieni, niente. Democristiani alieni. tipo queste cose così, no? Perché, cioè, è importante, no? Sapete, tanto noi la chat lo In abbiamo. Effetti Craxi è un nome veramente alieno, è alieno. Cioè, alieno. Non può chiamarsi Craxi. Non può essere un italiano. Una cosa che non ho mai capito, le X dei cognomi italiani, da dove vengono? Ma pure le genere. Secondo però, me vengono dallo spazio. È chiaro. Sono cadute dal cielo le X. Infatti le astronavi su Battlestar Galactica, quelle dei Siloni, come erano AX, mi ricordo, cazzo, mi cogli... hai scoperchiato il vaso di Pandora. Mamma mia, adesso ci troviamo, questa è la nuova teoria del complotto, qui ci troviamo la gente qua fuori, quindi Craxi era un Silone. Allora, siamo per guadagnare tanti soldi, ragazzi, o per morire. Era un Silone, sì, beh, era un po' un Silone, a morire. Craxi era un po' un Silone, però Craxi c'ha il merito di essere stato uno dei pochi, se non forse l'unico statista italiano che gli ha detto agli americani piatevela under culo. Perché vi ricordate quando c'è fu il dirottamento dell'aereo che poi lo fecero atterrare praticamente all'aeroporto di Roma. Gli americani l'avevano circondato e lui ha detto: fermi qui, voi non fate un cazzo, ci pensiamo noi. E lì gli americani non l'hanno mai gradita quella cosa lì, insomma. No, non gradiscono. Ci hanno regalato cose. Il governo attuale. Esatto, ci hanno regalato Berlusconi. La pagherete nel tempo, esatto. Noi sappiamo aspettare. La stanno già pagando. Vabbè, sì, quindi no. Torniamo un attimo agli alieni, che sono una cosa importante. È importantissima. È inevitabile. Inevitabile. Cioè, preferisco pensare al fatto che, boh, in qualche maniera proveniamo da altrove, piuttosto che pensare al fatto che ci stanno tutti sti cazzo di alieni, ma poi che cazzo ci vengano a fare? Cioè, pure qui, no? Tu mi devi dare un motivo per crederci. Allora, la letteratura, dove per letteratura c'è sia il cinema che la letteratura, c'è la Terra, è un posto con un sacco di risorse, molto interessanti. Ci può sta, ok. Cioè, i visitors venivano perché c'era l'acqua. C'era l'acqua. Che è una cosa ridicola, perché fondamentalmente... Poi dopo se mangiavano pure i cristiani, però... Idrogeno e ossigeno sono dappertutto nell'universo, per cui... Sì, la potresti creare. Un po' sbattimento, però con creare. Una temperatura, una pressione diversa, cioè, sì, diciamo la Terra ha condizioni molto privilegiate, però sempre per più la nostra forma di vita, cioè, per la nostra forma di vita, ovviamente, sì. Però esistono sempre più, si trovano sempre più pianeti che hanno condizioni simili, non proprio identiche ma simili, quindi con l'acqua, con una certa condizione, temperatura, pressione, bla bla bla bla bla. Però questa cosa che trovano i pianeti poi è bello, perché quando ogni volta che trovano un pianeta c'è sempre qualcuno che gli ha visto, cioè... Io sottovoce, tra l'altro. Hai visto? Ci avevo ragione. De che? Ma te che c'avevi ragione? Ci sono altri pianeti. Stai a vedere, lo dicevo io. Aspetta, stai a vedere, perché Zeta Reticuli sta lì, Che cazzo è Zeta Reticuli? È da dove vengono i grigi. Ah, ok. Marca, sei un esperto tu. Sì, io tutte le so. Alla fine, questi video qui sono visti dal 95% della gente scettica che guarda. Sì, lui è il 95%. Eh sì, perché devo imparare, non è che me. Se no non mi rimangono impresse. Io Pizz, sta attento che dopo un po' diventi rettiliano pure tu. No, no, io avrei potuto diventare tante cose, perché io sono passato dai rettiliani ai fantasmi e così. Io ho queste fasi nella mia vita che esploro, perché in realtà l'imponderabile mi ha sempre affascinato, ed è giusto pure che sia così, perché se uno non ci avesse la curiosità, e alla fine sarebbe triste, no? Cioè, non te frega un cazzo, non te frega un cazzo di niente. È anche il fondamento della scienza, tra l'altro, anche quando gli scienziati dicono: ma gli scienziati chi? Cioè, gli scienziati... I famosi ricercatori. Ma poi ricercatori. Gli scienziati stessi sono formati da fazioni che... Sì, anche si lì. Scontrano, ecco, cioè. Anche lì. E anche questo ti dimostra quanto poi, alla fine, dai adito al complottista, cioè, nel senso, la scienza è la scienza. Sì, ma neanche la scienza dice quello che dico è vero. Anzi, la scienza, quando cerca di dimostrare che 1 più 1 fa 2, cerchiamo di dimostrare che 1 più 1 fa 3. E se non ci riusciamo, vuol dire che stiamo escludendo, perfetto, man mano. Perfetto, sono d'accordo con te. Sì, esistono dimostrazioni per assurdo, però non è che la scienza agisce solo per assurdo. No, solo per assurdo. No, però è vero, però quello che volevo dire. Non è che se dici 1 più 1 fa 2, l'ho dimostrato, allora questo è sempre vero. Devi anche dimostrare che le altre... Vabbè, poi sull'1 più 1, vabbè, è un esempio del cavolo. Secondo me, però, c'è il complottista medio, cioè, va anche a contestare il metodo scientifico. Anche quello. Ma secondo me il complottista medio se ne sbatte del metodo scientifico. No, aspetta, però c'è stato un tempo in cui, perché vedete, quando tu vuoi, perché prendono Tesla come esempio? Prendono Tesla come esempio perché magari Tesla, ma io non lo so, perché non sto parlando di una cosa di cui non so, quindi sto parlando per assurdo. Magari Tesla era un cialtrone, ok? Però Tesla diceva: ah, per me si può fare sta cosa. E tutti lo piavano per culo. Ah, ma che cazzo dici? Nella scienza sta cosa si è ripetuta milioni di volte. Quante volte uno scienziato ci ha avuto l'intuizione e non è riuscito totalmente magari a dimostrare la cosa, e nessuno lo prendeva sul serio, perché comunque la comunità scientifica è elitaria. E ritornavo al discorso. Ma anche quelli che l'avevano dimostrato, tipo Einstein con la relatività, a inizio Novecento è arrivato lui e dice: è così. Poi 100 anni dopo ne hanno avuto la conferma della relatività. Col bucio nero. Col bucio nero, bucio de culo. Perché per 100 anni siamo ancora stati... Sì, è così, però... Eh sì, perché non c'era l'oggetto fisico. Quel tizio fantastico, lo ricordi? Non ti ricordi il nome, sa, vero? Quello, no, io vi ho già dimostrato. Sì, sai che ci stavo giusto pensando. Te lo vado a prendere subito. Vado a ricercare, perché c'è sto tizio che sotto la cosa della notizia del buco nero, sto tizio. Dice, Luca, ma no, io ho già dimostrato. Vi ho già dimostrato che sono tutto cazzaggio. Sì, lui ti ha dimostrato. Capito? Ma io di fronte a questa meraviglia, io devo solo battere le mani, Alex. Sì. Stavo giusto per dimostriamo pure noi qualcosa. Abbiamo dimostrato, recenti studi scientifici hanno dimostrato che qualcosa abbiamo dimostrato. Cioè io e Alex un giorno, quando ci saremo veramente rotti il cazzo, ci troverete a capo dell'associazione para alienotologica, giusto? Sì, sì, sì. Ok, perfetto. E quindi e faremo soldi con questo. Possono cosa. Condividere le cose di Facebook fuori Facebook? Tipo i post? Sei pazzo? Cioè, non c'è niente oltre Facebook. Esatto. È come il muro della terra piatta. Stavo pensando la stessa cosa. No, perché questo vabbè. Qua. No, dai, non facciamo il nome perché poi. No, fallo. Ma che te frega, dai. Alessandro Ratti. Esatto. Ah, ecco, bravo, Alessandro Ratti. Che l'avevo nominato in OGN. Leggi il post che è importante. 51 perché? Minuti fa ha scritto: mi sono stufato di perdere tempo con la stupidità diffusa. Quei pochi che usano il cervello si dovrebbero unire ed aiutare per prevalere sulla maggioranza priva di ragionamento, ma ciò non accade. Ringrazio chi mi ha seguito, ma non perdo altro tempo. E questo lo dice tipo da 2 mesi. Non perdo altro tempo, non scrivo più. Allora, queste sono persone che hanno pure un problema alla base, eh? Cioè nel senso. Anche Pizzi, qua... ogni 5 minuti ci basta, ho finito, non vado più avanti. E poi qua mette la foto di. Come si chiama? Di Einstein. Alla base. E scrive: mi rendo conto che ci sono tanti mitomani e tanti studiosi più o meno ufficiali che dicono di aver fatto scoperte sensazionali. È pur vero che tra loro c'è magari qualcuno che dice realmente delle cose giuste e utili. Nessuno finora mi ha smentito sulle contestazioni alle ipotesi di Einstein e dalle leggi di Maxwell. Forse non hanno smentito perché non se lo incurano. Cioè, praticamente... Sì, ma già Einstein e Maxwell sono concetti avanzati, quindi chi lo segue probabilmente non sanno manco. Segue? Di cosa si parla? Esatto. Ma... già io stesso non ho mai visto le equazioni di Einstein complete, Maxwell sì. Più o meno. Senti, quindi... io stesso parla di sé, vedo. No, io ma... dalla mia quando fa ingegneria però è vero che in fisica 2 no, è vero che avendo il cervello alieno Max, chiaro sì. Che cioè, però io dico vero, queste vero. Cose si dicono da un secolo e mezzo giù di lì. Oggi abbiamo i cose di particelle, come si collisori, gli acceleratori di particelle, perché Merlin Collider del Gran Sasso, no? Esatto, sì. Quelli là, okay. Che vanno a dimostrare effettivamente che prendendo questi c'è il muone, c'è la particella di Fermi, mezzo mione anche, mezzo muone. Mezzo bello questo. E cioè tu invece dalla tua scrivania col tuo computerino sei in grado di vabbè, dire questi sono matti, questi cioè, acceleratori questi sono matti. Io la vorrei andare a vedere vabbè. Dove lui scrive, dove contesta sta lui scrive cioè. Su alessandroratti.it adesso c'ha il suo sito blogspot no .com parlate così lo vado a cercare com, dove c'è il sito bellissimo, sai quei siti prefatti, no? Tu lo apri, c'è l'immagine di copertina con una piantina su un tavolo. Ma questo è il template di standard con la prima esatto. Immagine standard di, esatto, sì, sono quelli di... tipo Blogspot. No, questo è WordPress 2019. Sì, no, questo è WordPress, sì. Cioè, veramente molto credibile. Allora, c'è il primo articolo che è la massa inerziale. Però c'è un punto esclamativo, una freccia arancione che... Cioè, praticamente un'immagine presa da un libro di fisica è un punto esclamativo, una freccia arancione, dire non è così. Ecco no, qua. No. No, dai, leggi l'articolo sulla massa inerziale, ti prego. Vai, leggilo tu, Alex, che sei un po' più. Il titolo però... scherzoso è Elettrone, diglielo tu. Il titolo ufficiale è la massa inerziale. Nella puntata precedente ho introdotto il concetto che la materia non esiste. Ho successivamente evidenziato come le deduzioni di Einstein e Maxwell fossero errate, ovvio. Per quanto riguarda Maxwell, in realtà è stato solo un fraintendimento, ha capito male. Le equazioni di Maxwell non sono di per sé sbagliate, ma devono essere riviste. Non è per questo l'argomento di questa puntata. Parliamo invece proprio dell'equazione di Maxwell, appunto, e del dipolo elementare per capire cos'è esattamente la materia. A chi proviene da Facebook chiedo cortesemente di iscriversi alla newsletter a lato. Giusto, bene, questo è importante. In un articolo scientifico questo è importante. Questo gli dà credibilità. Esatto. L'account Facebook può sparire in qualsiasi momento. Questi sono proprio i poteri forti. Mamma mia ragazzi, come sta agli iscritti nessuno. Non mando pubblicità e non ne comunica a nessuno i contatti. Semplicemente riceverete i post successivi alla mail che indicherete. Vabbè, ma vaffanculo, già mi ha rotto il cazzo. Perché la mail non è controllata dai poteri forti, no, solo l'account Facebook. Mamma mia, Vabbè, questa ve la ricordate la ragazza che parlava della Federazione Galattica di Luce su YouTube? Cioè, grazie a Dio no, ve la dovete ricordare. Ma adesso... perché ogni volta che vengo da te Pizzi mi faccio una full immersion in queste minchiate? Adesso ve la... No. Allora, se tu levi questa roba dalla tua vita, levi una parte di gioia. E di tristezza allo stesso tempo anche. È più tristezza, effettivamente. Vabbè, parlate tanto. Metto io, eccola, mamma mia, oddio, come la vedo in faccia, già mi fa paura, ma questa fa paura. Cesare, vieni qua. Io non la conosco. Vuoi vedere anche io? Aspettate. Come dire, aspettate, perché vediamo se entrano i microfoni. Scusate, questa è Radio Becera, però questa fa veramente paura. Ciao a tutti, fratelli e sorelle di Crayon. Chi è Crayon? Chi di che cazzo? Ripetuta corretta in versione 12-11, cioè dicembre 2011. Guarda la tagliera dietro, cioè c'è la vetrinetta tutta vuota. Vi saluto nuovamente perché ci comincerò a fare ancora qualche video, in quanto stiamo raggiungendo il culmine, il di cosa? L'ora X, stiamo raggiungendo la persona, è opportuno che le cose. Cosa guardi? Cosa sta guardando sopra di là? Il padrone vuole cacciare la spia. Cioè, raga, io vorrei far vedere una cosa. Quanto perché sono un po' che non sa. 48.000 visualizzazioni. Allora, questo sta a indicare che oltre a te, Pizzi, c'è un sacco di gente che non c'ha un cazzo da fare nella vita. Che si permette a guardarli. Ma il guardarlo è relativo, cioè, ma guarda lei. Non mi esprimo su di lei. No, non la devi giudicare come. Ma guardala però. Appunto, non mi esprimo. Sulla vetrinetta avrei qualche opinione. Capito. Ma io non riesco a capire cosa sta dicendo. Cioè, ma non lo sa manco lei. Allora vi riassumo. Che la Federazione Galattica di Luce, fondamentalmente, che sono i buoni. Ah. Ok. Stanno arrivando e ci porteranno un evento energetico, non ho capito bene. I militari non lo vogliono questo, no, e quindi ci stanno prendendo a tutti segretamente, ci stanno portando nelle basi dentro le montagne. No, minchia, anch'io lo sapevo. Quindi se quando arriverà l'ora X vengono i militari, scappate, perché sennò vi portano nelle montagne e non subirete l'evento. Quindi un giorno in cui ci sarà una catastrofe nucleare, arriveranno i militari per salvarci, noi gli diremo, c'è l'evento che arriva, voglio arrivare. Beh, però secondo me questa roba qui è, i militari dicono, non ce la facciamo a salvarli tutti, dobbiamo lasciar fuori più coglioni. Allora tu che sei una scienziata con gli occhiali. Ma che scienziata questa? No, ti ho detto, tu inventati ste cagate, così quei pochi stronzi che ci credono già e facciamo un po' di selezione naturale. Secondo me è per il nostro bene che dicono, che fanno tutto questo. Io adesso voglio dire una cosa volgarissima, è la cosa più becera e brutta che mi sentirete dire da qui. Secondo me a questa, se tu gli metti il pisello davanti alla faccia, gli alieni spariscono. Possiamo chiudere. Sei rimasto e fai qua. Ti dirò che io pensavo che la stessa cosa. Pensavo che l'avresti detto e stavo per dissociarmi modello Pippo Baudo negli anni d'oro. Allora io in anticipo so che dovrò dissociarmi. Esatto. Ma so che dentro di voi lo avete pensato tutti. No, però allora un pisello fa bene a tutti. Sì. In certi casi secondo me ti cambia la vita. Esatto. Cioè, ma l'abbiamo dimostrato recentemente. Che recenti studi scientifici hanno dimostrato che la gente dovrebbe scopare di più. È una verità indubitabile. In generale, tutti. Con chi? Sì, perché secondo me. Con Lobby che è appena entrato in chat. Esatto, perché secondo me, oltre che c'è un ricambio energetico proprio dentro di noi, capito? E quando viene il militare sei più accogliente. Che dici, no, però. E secondo me comunque il cazzo cambia la vita a tanta gente. E io questo l'ho imparato milioni di anni fa, questa cosa. Che ho visto gente trasformarsi, eh. Sì, assolutamente. Dovremmo combattere. Ecco, il nostro partito sarà il partito del cazzo. Cioè, noi ti guariremo con il cazzo, va bene? Siamo il partito preso. I cazzinatori siamo noi. Vediamo a guarirti con il pisello. È bellissimo. Questa. Mi sono quasi commosso. Siamo già al 30%. Il partito preso. Il partito preso in quel posto. In del posto, esatto. Vabbè, comunque. C'è quel Lobby Frontali che. Bella zio. Stanno tornando dal canile. Così. Coi cani. Scoppate di più. Vabbè. Ma pure. Cioè. No, la Pippa non. Allora, secondo me per donne allucinate, la masturbazione non è sufficiente, secondo me. No, ci vuole. Perché lei vive nel senso di colpa, si vede che è una donna che sta lì. E... invece, secondo me, se tu a un certo punto la metti di fronte alla stanza, un po' uscì, no? E tiri fuori, e quella no. E poi spariscono gli alieni, cioè spariscono, a un certo punto spariscono. È molto sessista quello che stai dicendo. Lo so, mi rendo conto. Io però secondo me noi dissociarmi. Abbiamo fatto 200 anni. È sessista, anni... ma è vero. Esatto. Abbiamo fatto 200 anni. Non sono anni sessista, ma di cure psicologiche basate sull'elettroshock e non abbiamo capito un cazzo, che è il caso di dire. Esatto. Sono d'accordo, sono veramente a scopare tutti. Poi in realtà il cazzo va bene per un po', però anche la figa ci vorrebbe, visto che... Sì, il cazzo e la figa a secondo di chi è interessato a uno all'altro. Anche il culo a questo punto, non è che... La panza calla. Diciamo, dai a nominarmi in vano. Io non nomino più nessuno, mi sono scottato da solo. Ok. Sto bruciando ancora. No, io non so leggere, lo sai, Lobby. Ah no, scusa, non dovevo dire che sei tu. Va bene. Ok, questa puntata voglio fare un giro finale. Tiè, parli di qualcosa che ti viene in mente. Qualcosa a caso? Sì, sì. No, è stata una bella puntata, scherzi a parte. Tutto sommato, sì, dai. Sì. Si è finiti su un ambito piuttosto serio e poi giustamente beh, si è... No, però un po' di morti di bestemmie ce la dovevamo mettere, sennò... Esatto, beh, per forza, scusa, altrimenti non ci seguono più. Hashtag partito del cazzo. E hashtag mezzo mio, mezzo muone. Esatto. Sì, anch'io confermo, approvo, giusto. Hai detto bene. Bella puntata. Sì. Grazie. Ah, sì. Ok. Comunque, vabbè, poi dopo le cuffie lasciale lì, Sì. Ti smontiamo pure le cuffie adesso. L'asta puoi prenderla. La puoi prendere? L'asta puoi prenderla. Peccato che non ci vedono, perché sennò... Ma forse è meglio così. Perché siamo tutti col pisello di fuori, pensando. Ci guariamo a vicenda. Infatti Alex non ci pensa più agli alieni. Questo è l'inizio del partito, ma non ragazzi. Ci pensavo neanche prima agli alieni. La prima assemblea del partito. È l'atto fondativo. È l'atto costituente del partito. Cioè... Mezz'asta, sì, giustamente. Hashtag mezz'asta, c'hai ragione. Questo è da parte però di se tu gatti. Metti l'apostrofo sull'hashtag, poi l'asta rimane fuori. No, ha detto bene Alex, è hashtag. Hashtag. Anzi, attenzione, sta per partorire. Mezzo milione di aste. No, questo non ci piace. No, vabbè, Davide, errore. Va bene, quindi concludi tu, dai. Che dire dopo questa meravigliosa puntata? Capisco perché da un po' che non facciamo puntate di morti di bestemmie, perché poi alla fine bestemmiamo perché, di più di perché era bestemmie. La cosa più becera che abbiamo mai fatto nella nostra vita e ci faceva stare bene. Sì, effettivamente sì. È che io ricordo sempre, cioè ogni tanto dico ma è il nemico è troppo forte, non riusciamo a combatterlo. Cioè noi possiamo fare satira, possiamo fare ironia, ma il nemico è troppo forte, ti passa anche la voglia di riderci. Questo è il problema. È vero. Per intanto, cui... nel frattempo mi sto ricordando che non ho registrato, però cioè, comunque prenderemo il file da Spring. Sì, lo so, ma me ne sono accorto anch'io che non avevo registrato. Potevi dire, scusa. Ma me ne sono accorto dopo un po'. Io me ne sono accorto adesso. Io me ne sono accorto adesso insieme a te. Quindi. Esatto, bravo, esatto. Ci abbiamo l'accortezza, dai. Se non lo dicevi. Questa è una puntata assolutamente anomala di morti di bestemmie. Ma che, neanche tanto. Che, vi devo dire, lo so che l'ho detto tante volte, ma ci proviamo. Vi giuriamo che ci proviamo. Perché ci manca pure a noi ci manca forse più che a voi, insomma, può essere per il valore terapeutico che aveva questa trasmissione. Quindi io saluto Cesare Giraldi. Ciao a tutti. Simone Cusella. Ciao, grazie per l'invito. Alex Racuglia. Ciaone. Perché mi guardate? Cioè, ciao Juan. Che tu devi rimandare il saluto. Ah, ok. E io saluto tantissimo Simone the Man Pizzi. Oh, fa il culo. Ciao. Ciao.